Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Scusandoci del ritardo, ringraziando tutti voi per la cortese attenzione e Cristiano Valli per la regia, vi confermiamo che domenica prossima ci fermiamo per una pausa e riprenderemo la trasmissione fra 15 giorni alla medesima ora. Grazie per la vostra attenzione e buona giornata.